Abasa. Egli si accigliò. Capitolo 80° del sublime Corano. Rivelata alla Mecca, consta di 42 ayat ed è scesa dopo la sura An-Najm, la sura 53. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. Il profeta aggrondò le sopracciglia e infastidito voltò le spalle quando il non vedente gli si avvicinò. Che ne sapevi tu, o Muhammad, se il non vedente si sarebbe purificato o si sarebbe ravveduto, essendogli stata utile cosa il ricordo? A colui che è diventato ricco, tu gli vai incontro con viso accattivante e poco ti importa che non si purifichi. Di chi a te si avvicina con buone intenzioni e teme, tu invece non ti curi. Non è così che si deve fare. In verità, questo è un richiamo alla memoria del messaggio che non c'è divinità tranne Allah. E chi vuole ricordare lo ricordi. In pagine sante è il messaggio, pagine sublimi e pure, vergate dalle mani di scrivani di alto rango e devoti. Sia annientato l'uomo per aver rifiutato di credere in esso. Da quale sostanza Allah lo creò? Lo creò da una goccia di sperma e gli diede forma. Poi la via d'uscita gli rese facile. Poi lo farà morire e lo seppellirà. E poi, quando egli vorrà, lo farà risorgere. Niente affatto. L'uomo non adempie ciò che Allah gli ha ordinato di fare. L'uomo faccia una riflessione sul suo cibo. In verità, siamo noi che facciamo scendere l'acqua in abbondanza, poi dissodiamo la terra e facciamo crescere in essa granaglie, vite ed erbaggi, olivo e palma, giardini rigogliosi, frutteto e pascolo a beneficio vostro e del vostro bestiame. Ma quando giungerà Assaha, la fine del mondo, quel giorno l'uomo fuggirà da suo fratello, da sua madre, da suo padre, da sua moglie e dai suoi figli. Ognuno di loro quel giorno avrà da sbrigare un affare tutto suo. Quel giorno ci saranno, sì, volti radiosi, sorridenti e gioiosi, ma anche facce stravolte e avvolte nelle tenebre. Sono le facce dei perversi, i quali rifiutarono di credere.